È da settembre che siamo qua. Scusa. Ok, grazie. È da settembre che giriamo. Ok. Prego. So. Voi che fate invece? Noi facciamo una mappatura dei suoni di questo quartiere. Per poi andare a raccogliere interviste e poi mappiamo tutto sul web. Nel laboratorio loro sul liceo artistico. Bene, noi abbiamo due a giro, abbiamo dei saggisti. Sto qui sotto, davanti alla porta. Abbiamo dei saggisti che vengono a vedere i parrucchieri e truccatori. Ah, ho capito, le professionali. Dimmi, dimmi. Interessante. Avanti. Buongiorno. Ok. E allora buon lavoro, ragazzi. Altrettanto. Grazie. Altrettanto. E chi cacchio è?